fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Cominciamo subito a chiarire che questo non è un programma dalla parte delle donne, non c'è niente di più miserrimo che un uomo che dice io sono dalla parte delle donne. Innanzitutto un ipocrita, nessun uomo è dalla parte delle donne. Un uomo nella migliore delle ipotesi può essere un prudente e discreto osservatore delle donne, può essere una sorta di parassita che passa attraverso le donne per riuscire a carpire qualcosa della realtà come vista da loro, perché è sempre una sensibilità diversa la nostra, c'è sempre qualcosa in più nello sguardo della donna. E proprio in questa ottica io ho voluto oggi dedicare la trasmissione alle donne che amano gli animali. Oggi si parla di donne che amano animali, ma non sono gattare e nemmeno cinofile. Care donne in ascolto, ieri abbiamo parlato del matrimonio. Oggi vorremmo sapere perché vi accompagnate a delle bestie. Perché vi accompagnate a delle bestie? Dall'anello che manca all'anello mancante. Perché per la felicità a tutti i costi a volte scendete lungo la catena evolutiva della specie maschile? Qualcuna di voi ci ha già scritto su Facebook che se l'argomento è la distinzione tra l'uomo con la clava e l'uomo di Neanderthal, in fondo ci riagganciamo al discorso sull'uomo glabro contro quello peloso. Altre ci hanno fatto questa simpatica similitudine. Lo vorrebbero come un mulo che porta i pacchi, un leone nel letto e un asino che paghi i conti. Questa è la prima superficiale lettura rispetto a un luogo comune che viene confermato ogni volta che siede un'amica, una conoscente, una persona anche sconosciuta, accompagnata da uomini che sembrano non essere alla sua altezza. Uno dice, ma potrebbe pretendere molto di più. Perché si accontenta? Beh, vedendo, investigando, raccogliendo confidenze, scrutando, estorcendo, facendo bere e poi ascoltando, si riesce a capire che in fondo per le donne arriva un punto, molte dicono è l'orologio biologico, molte altre dicono che in realtà è la necessità di uno status, una società che sembra apparentemente ormai priva di certi condizionamenti, richiede comunque che accanto alla donna ci sia sempre un uomo, anche se una figura simbolica, anche se una figura che soltanto è un simulacro spento di ogni responsabilità maschile. Altre dicono che in realtà la solitudine faccia molto paura. Soprattutto una frase illuminante che mi ha scritto proprio 5 minuti fa su Facebook una delle persone che ci seguono non dalla radio ma attraverso il computer, che si chiama Maria Giovanna, dice: per alcune donne forse la solitudine è più bestia di qualsiasi umano bestia. Ma via, quando diciamo donne che amano le bestie non intendiamo proprio quello. Ci possono essere uomini semplicemente noiosi, pedanti, sgradevoli. Perché vi accontentate di avere un rospo accanto, un bradipo a braccetto e un ghiro sul cuscino? Care signore, perché pur di avere un uomo vi accontentate di un animale? E non pensate subito a Marina Lothar, quando noi abbiamo in mente invece Emma Bovary. Ci stiamo andando vicino, 800 24 00 24. La solitudine, le donne hanno paura di stare sole, noi uomini non sappiamo cosa sia la solitudine. Per un uomo è sempre più difficile restare solo che per una donna. Noi siamo infami, molte volte fuggiamo dalla solitudine perché troviamo qualcuno che ha compassione di noi, facciamo tenerezza, e ama avere comunque questo cucciolone spento accanto, anche se ogni tanto va a fare la pipì sull'alberello non proprio del giardino di casa. Esistono anche la paura, molte donne hanno uomini vicino per paura, li temono e quindi se li tengono accanti, cercano di tenerseli buoni. Poi gli uomini hanno degli ammortizzatori sociali alla loro solitudine, immaginate la calata delle fate dell'est, parleremo anche di questo tema. Ci sono interi comuni in Italia in cui le famiglie sono state dissolte, spezzate da questi ometti cinquantenni che ritrovano la passione e l'amore per queste meravigliose cavalle impazzite impazzite dagli occhi verdi, dai capelli biondi, dai corpi splendidi che li fanno innamorare, ci fanno i figli e poi li portano via fino all'ultima goccia di proprietà e poi tornano come cani bastonati scodinzolando dalle loro mogli varicose, dicono riprendimi a casa e loro le riprendono. Beh, noi uomini non abbiamo paura della solitudine per questo, le donne sì. Vi porto un esempio, una storia che ci viene da Facebook. La protagonista è una donna bellissima. Vedo la foto, la seguo nel suo errabondo virtuale, la vedo sedurre, la vedo parlare, la vedo primeggiare su tanti uomini. Poi è veramente bella, eppure ci ha raccontato la storia del suo amore per una bestia. Il mio nome è Giulia, ho compiuto da poco 30 anni e sono rimasta estremamente colpita, affascinata e ho conosciuto un uomo veramente brutto, ma un ex bello che è diventato mostruoso. Si è completamente lasciato prendere dal nichilismo, ha cominciato a mostrare dei forti gonfiori alla pancia, i suoi capelli erano e sono perennemente sporchi, ha i denti nerissimi dal fumo perché fuma tantissimo, è una specie di Fabrizio De André degenerato, è francamente irresistibile, è veramente l'antimaschio moderno. 800 24 0024, cominciate a confessare, fate questo coming out alla radio. La bestia che avete vicino probabilmente per voi rappresenta un motivo di fascino, per voi è una scelta minimale, una scelta obbligata. 800 24 0024, perché avete una bestia vicino? Vi risulta che le donne ripieghino su bestie pur di non stare sole? Quest'uomo si presenta normalmente con abiti che lava, credo sia sì, non una volta al mese, e porta spesso jeans molto consunti, scarpe da ginnastica o Clarks molto consunte, addirittura mette cappotti usati, sdrucciti, ha un modo di parlare che è quasi un gruffolare, nel senso che sembra l'uomo lupo, ecco, che quando vede la luna piena si trasforma e inizia ad acquistare un tono di voce molto profondo ed aggressivo, una cosa quasi fumettistica, diciamo. Elementi esteriori apparentemente schifosi, anzi oggettivamente schifosi, ne parla però quasi con un senso di tenerezza, con un senso di ammirazione. Qual è il meccanismo segreto che soltanto le donne conoscono, che riescono ad affascinarsi o essere affascinate per turpitudini del genere? Perché noi uomini non ci riusciamo? A noi la turpitudine fa orrore, abbiamo questa sorta di atteggiamento schizzinoso verso il genere femminile, guardiamo ogni particolare, ogni capello fuori posto, ogni scorrettezza corporea, siamo pronti sempre a sottolineare tutto. Perché le donne sono così generose? E perché contrabbandano per fascino quello che è semplicemente schifo? Una donna cerca sempre di sentirsi unica e di sentirsi amata anche attraverso il sesso, naturalmente. Moltissimi uomini sono distratti, annoiati, passivi. Non posso negare invece che quest'uomo nelle sue manifestazioni sessuali sia anche incredibilmente coinvolgente e quasi oscuro. Ripeto il numero 800 24 0024. Trovo stranamente un senso di riservo da parte delle donne, si parla molto più facilmente di tante altre cose, non si ammette di avere una bestia accanto, nessuna vuole essere considerata una guardiana di giardino zoologico, nessuna vuole ammettere una bestia accanto, perlomeno molte me lo stanno scrivendo, me lo raccontano. Elena mi racconta una confidenza avuta probabilmente in famiglia di un mondo arcaico e lontano, dice una storia di vita vissuta da un lontano parente. Una volta nelle cascine lombarde spesso braccianti vivevano in case coloniche con enormi cameroni e letti separati solo da tende. Quando il caro marito tornava a casa, spesso, rigorosamente ubriaco, sbagliava letto. A volte la mattina quella che oggi chiameremo l'amante faceva due chiacchiere con la legittima consorte, la quale provvedeva a castigare il fedifrago in modo che non ci è dato sapere, ma si sospetta provvedesse usando oggetti contundenti. Un grande esempio di grandiosità femminile al tempo del prefemminismo. Allora l'uomo bestia era naturalmente una consuetudine, non c'era nemmeno possibilità di scelta diversa, ma oggi sembra quasi impossibile, sono finiti gli uomini. Doriano, lei cosa ne dice? Ma buongiorno, senta, io seguivo Ma a me non risulta quello che sta dicendo. Premetto che io quando posso la seguo volentieri, però io ho fondato da 8 anni, io sono singolo, un'associazione, io ho 60 anni, un'associazione a Pistoia, Prato, Lucca e Viareggio, seguo questo. E onestamente a me mi arrivano gli uomini disperati, la donna non è subito alla ricerca, diciamo, vive bene anche da sola, mentre gli uomini proprio ricercano per vari motivi, anche aspetto sessuale, la donna è più tranquilla. A me mi risulta questo veramente, con 160 soci e poi c'è sempre un giro di ricambio. La donna Quindi lei risulta che in realtà la scelta bestiale non sia motivata da solitudine, quindi, perché noi il tema della trasmissione è donne che vediamo accompagnarsi con uomini palesemente non all'altezza della loro compagna, la donna che hanno vicino, e ci chiediamo perché lo facciano. Ma questo forse anche questo è discutibile, cioè nel senso, io capisco, ora lei anche, di volte un po' anche ironico, però il fatto è questo. Ma non è l'argomento che faccio poi tanto sorridere, questo. No, ma il fatto è questo, che ad esempio, cioè, come possiamo noi dire, l'amore è una cosa misteriosa, cioè quello che può sembrare, veramente anche a me vedo tante persone, oppure io ad esempio, io ora sono un singolo, diciamo, fra virgolette, perché da 8 mesi ho una compagna, io non sono un bell'uomo, sono attivo e tutto che tu vuoi, però lei è stupenda, ma questo ci vogliamo bene e non c'è interessi. Però si rende conto che è lecito per chi vi veda insieme un occhio superficiale, dice, ma perché quella bella donna splendida sta con quel signore? Questo è vero, perché lo faccio anch'io questo commento, però poi mi fermo lì perché dico io, se due persone c'è un qualcosa di più, che io spero infatti, ecco, più che all'esterno, ecco, che si trovino bene insieme, io tanto di cappello, insomma, dico io. Però c'è questo aspetto, è vero, specialmente le straniere, ecco. È straniera la donna che sta con lei? Susi, come? È una straniera la donna che sta con lei? Questa amica è una moldava, moldava che l'ho portata proprio ora a Firenze. Quindi rientra nell'argomento che avevo accennato, gli ammortizzatori sociali oggi. Io non so cosa dire, sì, anche questo infatti è vero. Sì, però siamo sinceri, una bella donna giovane, avvenente, appassionata, non la troverebbe mai fra le sue compaesane. Ma io non saprei ora come dirle, perché io ad esempio, ecco, ho fatto programmi come lei 6 anni fa, ho approfondito, mi interrogo, cioè io sono tranquillissimo e vedo, ecco, non sono stato anche anni senza compagna, non mi interessa, io perlomeno forse mi illudo, ma questa è proprio una storia, mi sembra, ecco, non ricerco nulla, ma è nata questa storia, poi può anche finire, cioè sono tranquillissimo. Ma se l'è sposata, se la sposa? Ma io al matrimonio non ci penso minimamente, ecco, poi voglio dire, a questa età qui non vedo, ecco, certe cose. Tra l'altro io voglio dire questo, così proprio in senso come dire, di trasporto, ma serio, li volevo mettere in testa una mia attività, che ciò lei ha rifiutato, per dirle. Ecco, non è che io lo volessi mettere in testa in quanto ho perso la testa, no, proprio perché collabora con me, la domenica viene con me al negozio a lavorare, proprio una volta. Ecco, volevo dargli un qualcosa, diciamo, di più concreto, farsi di più partecipe. E cosa le ha dato, quindi? Allora niente, lei ha rifiutato di avere questo negozio che io li potevo intestare tranquillamente a lei. Ecco. Va bene, un gesto generoso. È un insieme di cose, perché ci sono di quelle invece, giustamente, ci sono di quelle proprio, cioè il problema è vasto, che proprio cercano questo invece, cercano proprio soldi, cercano, diciamo, la cittadinanza italiana, è vasto. Volevo però non far monopolizzare la trasmissione a un uomo, volevo andare avanti e poi sentiremo un parere illuminato con la testimonianza della nostra ascoltatrice che su Facebook ci ha dato prove così evidenti e palesi del suo fascino femminile, ma in realtà la sua scelta affettiva è verso un animale. Essendomi abituata per un certo periodo a vedere un uomo che si alzava al mattino, beveva un cc di caffè e mezzo litro di whisky, qualsiasi altro uomo mi sembra strano, incolore, perché io credo che la società occidentale abbia molto appiattito nelle persone le emozioni, nel senso che le persone sono alla ricerca continua di emozioni, però non sanno distaccarsi da certi modelli che sono sia culturali che televisivi. 800 24 00 24, perché donne vi accoppiate o vi accompagnate o amate uomini bestie? Ornella dice: sono d'accordo, ma sono figlia di una madre, di un padre, sono decisa a separarsi quando ormai ci hanno già fatto troppo male. Mia madre non sapeva stare da sola né in compagnia. Tirando le somme viene in mente questo: sia per stare soli che in coppia ci vuole equilibrio e autodisciplina, e probabilmente sta insieme a un uomo bestia. Abbiamo al telefono Gianna Schelotto. Gianna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ti ho lasciato in silenziosa attesa perché volevo che tu capissi di cosa stiamo parlando, avessi tutti gli elementi. Gianna Schelotto, a parte una mia amica, per questo ci diamo del tu, è una psicologa, conosce molto bene il mondo femminile e non so se faccio una gaffa, un'indiscrezione, sta scrivendo un libro proprio su donne che ripiegano su uomini non all'altezza probabilmente di ciò che loro meriterebbero avere. Esattamente il problema di cui stavate parlando stamattina, cioè ci si chiede sempre come mai, perché mai le donne, che pure hanno fatto, come dire, sono reduci da 30 anni di femminismo e quindi un lavoro su se stesse, sull'autonomia, sull'indipendenza economica, sulla stima di sé, perché mai poi finiscono con uomini che sono certamente molto al di sotto di quelle che potrebbero essere le loro aspettative. A te risulta che sia un fenomeno? Io lo vedo tutti i giorni e confrontandomi con altri uomini ce ne accorgiamo. Forse anche noi rappresentiamo la parte bestiale di una coppia quando usciamo con le nostre mogli o compagne, però è facile vedere sempre quello che ci circonda piuttosto che vedere noi stessi. Ecco, ti risulta che sia vero che le donne in fondo sono in un momento di ripiego di scelte, si accontentano? Per quello che risulta a me sì, infatti ci sto lavorando proprio per questo, cioè che sia un fenomeno certamente più significativo di quanto non possa sembrare, perché si è fatto un gran parlare delle singole, della felicità delle singole, dell'autonomia delle donne, però c'è sempre in queste donne un senso di incompletezza e anche un senso di disagio perché sono, per così dire, fuori dagli schemi sociali correnti. Questo che rende queste unioni così, che danno a questa unione questo senso di imperiosità, e cioè non si tratta soltanto di una questione di solitudine, ma anche di un bisogno assoluto di conferma. Io sono come le altre, io sono normale, e nella ricerca disperata di questa normalità c'è sicuramente un livello di autostima molto basso. Pensa, cioè, Gianna, donne... che ieri abbiamo fatto una trasmissione parlando di matrimoni fittizi, cerimonie matrimoniali costruite come se fossero delle fiction televisive, proprio per avere una conferma pubblica e sociale del fatto che si è sposati. Questo probabilmente valeva sia per gli uomini che per le donne, ma in questo caso c'è un passo avanti ancora. Forse la società vuole una conferma che quella persona ha un compagno vicino, comunque è una coppia, non è una persona disperata, è sola, e quindi si ripiega sulla bestia. Sentiamo l'ultima parte, la testimonianza, la nostra ascoltatrice, e poi continueremo con Gianna Schelotto. 800 24 00 24. C'è sicuramente qualcosa di adolescenziale in questi sentimenti di attrazione nei confronti di uomini di questo genere, però va anche detta una cosa, che le manifestazioni adolescenziali sono quelle che tengono vive le persone. È molto semplice sposare, mettere su famiglia, il bravo ragazzo, il lavoratore onesto, eccetera. Io ho moltissime amiche che l'hanno fatto e veramente dico che forse sono delle poverette perché sono tutte alla ricerca di un'emozione diversa. E rieccoci qua, le donne si accompagnano a bestie, si accontentano di bestie, le donne non hanno spesso uomini all'altezza del loro modo di essere. 800 24 00 24, leggo un paio di messaggi da Facebook. Lucilla: si può essere soli anche in mezzo a tante persone o accanto a un partner sbagliato che non abbiamo più il coraggio di lasciare. In quel caso è più bestiolina la donna, che per paura si nega alla felicità, piuttosto che l'uomo animale che gode del suo stato senza nessuna necessità di cambiare. Cambio, prometto che cambio, promettimi che cambierai, sì prometto che cambio, poi non si cambia mai. Federica invece dice: non condivido, la solitudine è uno spettro, certo, ma uno scimmione nel letto mai, i denti neri credo che non potrei proprio mai tollerarli, eppure la persona che li tollera, vi assicuro, è una donna meravigliosa. Se mai mi accompagnerò a un bruto, mai dire mai, sarà comunque una persona speciale, ci possono essere dei bruti che piacciono, indubbiamente. Gianna Schelotto, riprendiamo, Gianna Schelotto, psicologa, sta scrivendo un libro, un'indagine sulle donne che amano le bestie. Rispetto a quello che hai sentito finora di testimonianze e telefonate, e che parere ti stai facendo? Una conferma ai tuoi studi? Sì, direi di sì, una conferma a questa aspirazione salvifica delle donne, perché non è che le donne non vedano tutti i difetti di questi uomini. La prima interpretazione potrebbe essere: beh, lo vediamo brutto noi dall'esterno, vediamo noi la bestia, ma lei è così innamorata che trasfigura qualsiasi cosa. Invece no, e questo è il mistero. Cioè, queste donne vedono benissimo, esattamente come vediamo noi dall'esterno, i difetti, i denti neri, la sporcizia, il non lavarsi, il non preoccuparsi, però è come se avessero scelto questa strada dell'automortificazione, o per punirsi di antiche loro presunte colpe, o comunque per sentire dentro di sé il potere dell'io ti salverò. È bellissima questa cosa qui. Donne che amano troppo, è una famosa serie di... Grande schiera delle donne che amano troppo perché in realtà non amano abbastanza se stesse. Non fraintendere nemmeno tu, Gianni, non sono qui a fare l'ometto, sta dalla parte delle donne, figuriamoci, non ho la passione per l'automartellamento gonadico, però mi interessa capire, è un po' come tutti gli uomini, mi rode vedere donne meravigliose con uomini schifosi. A mio avviso le donne oramai sono anonime. All'inizio, quando sono giovani, ragionano con l'utero, pensano esclusivamente ai soldi, ad avere la felicità. Poi si accorgono che hanno sbagliato tutto della vita, inseguono degli schemi nuovi, vanno in palestra, vanno in piscina, però per loro ormai è troppo tardi, perché gli uomini, quelli veri, si sono già sistemati e a loro non rimane soltanto che gli scarti, e poi si lamentano e dicono che gli uomini veri non esistono. Io vorrei solo dirgli che gli uomini veri esistono e che sono già impegnati e che loro hanno sbagliato all'inizio. Gli uomini non esistono perché le donne non vogliono farli esistere, perché vogliono un ideale che sia matto nel contempo e gli dia tenerezza, e questo non è possibile. 800 24 00 24, e non potevo non farvi sentire anche il punto di vista degli uomini che non si sentono bestie, nemmeno io mi sento bestia, poi magari se qualcuno me lo fa capire degli aspetti bestiali in me li vedo, ma mai a questi livelli. Le donne a casa si mettono le tutine felpate, fanno tutte le timidelle, poi quando vanno al lavoro e il marito è al lavoro, minigonne, perizoma e a tutte parti dentro queste campagne, poi vanno a casa, è normale che sono stanche e si mettono le tutine, è così. Io ho un lavoro che mi passa lontano da casa, purtroppo a casa quando che rientro, sabato, la domenica, sono 3-4 volte con 2 giorni, ma durante la settimana un paio di volte ci faccio scappare lo stesso. Mi moglie se c'ha voglia, se c'ha voglia, ma può fare di meno, tuta, non tuta, gliela levo. Ecco, non è molto cambiato dalle esperienze della vecchia parente, la nostra ascoltatrice, che diceva il bracciante agricolo lombardo inizi secolo che entrava nelle tendine dove sta tutta la famiglia patriarcale e bastava che respirasse, a chi toccava. Laura, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamata. Pronto? Sì, la sto ascoltando, Laura. Buongiorno, desideravo intervenire sull'apertura di alcuni minuti fa in cui lei parlava dell'uomo bestia, del cinquantenne che esce di casa invaghito dalle fatte che arrivano dall'est, e poi come un lecca-lecca oramai arrivato alla consunzione, al bastoncino, ritorna a casa mazziato e la donna lo riprende. Quando non c'è più niente da leccare, naturalmente. E lo riprende in casa per timore della solitudine. No, perché forse gli fa anche un po' tenerezza, gli fa pena, non lo so. Guardi, ho sentito parlare di tante tipologie di donne in questi 10 minuti. Penso che esistano tutte, come poi in realtà esistono tutte le tipologie di uomo maschio. C'è una differenza che andrebbe fatta secondo me per età, perché questi uomini che si invaghiscono delle fatte sono per lo più cinquantenni, il timore invece delle donne che per scarsa autostima si prendono in casa e si accompagnano a uomini discutibili forse è più tipico di un'età più giovane. Che sì, questo ha perfettamente ragione. Ed è cresciuta in un ambiente diverso. Io ho 53 anni e sono cresciuta negli anni 70, ho fatto l'università negli anni 70 e in Emilia. È vero che a noi donne forse una certa educazione borghese non ha trasmesso l'autostima, ha trasmesso concetti di sacrificio per la famiglia, per il marito, per i figli, una certa sottomissione. Però poi la vita ci ha insegnato a riconoscere le nostre capacità, le nostre competenze e la nostra capacità di realizzarci, di saper fare cose in autonomia. Lei si è mai accompagnata a Uomini Bestia? No, però forse a 50 anni puoi scoprire che l'uomo della tua vita ha comunque una parte bestiale. Ci mette, arriva a 50 anni per capirlo, non si capisce prima. Bravo. Lì secondo me gioca il fatto dell'amore, dell'innamoramento, che al di là di tutto quello che la mente ti può far vedere, far capire, certi aspetti, che più che bestia li chiamiamo istintivi, li chiamiamo carenze. No, io sto proprio parlando di animali, a tutti i livelli. Animali non soltanto perché puzzano, sono zozzi, animali anche perché sono dei mollacchioni, sono degli irresponsabili, sono dei vuoti, narcisi, vanesi, undivaghi, tutto ciò che non merita tanta donna vicino. Ma guardi, io sto, più vado avanti questa trasmissione, più mi faccio interprete di un senso di invidia e gelosia. In realtà gli uomini vorrebbero essere uomini di tutte le donne del mondo, almeno quelle che a loro piacciono. E quindi non tollerano, capiscono se una donna vicino a un uomo di cui individui oggettivamente le qualità, ma non capisci perché la donna che vale sta assieme all'uomo che non vale. Perché magari lo ha amato e poi con il tempo la forma di amore cambia, però rimane amore. E quindi rimane un'accoglienza. Quindi è la grande mamma, è la grande mamma che non si estingue mai in voi donne. La natura, millenni di selezione naturale, abbia finito col preservare un senso di accoglienza, per cui non prendi una persona con cui hai vissuto 30-35 anni che ti ha amato, perché lo sai che ti ha amato, che tu hai amato, e la butti via nel momento in cui ti ritorna. Perlomeno io penso che chi se lo riprende in casa, lo stecchino oramai arrivato alla consunzione, forse lo fa per senso di solitudine, per timore, ma forse lo fa proprio semplicemente per amore, perché il suo progetto di vita era, nel bene e nel male, di invecchiare con quella persona che conosce talmente bene che la completa e lei completa lui. Grazie Laura. Gianna Schelotto, su questa lunga confessione di Laura, che in fondo poi ci conferma alcune cose che già intuivamo. Sì. Quindi la grande mamma si riprende sempre questo marito figlio, qualunque cosa faccia. La grande mamma da una parte, dall'altra parte la grande ansia di non essere abbastanza amate. E questo è l'altro aspetto in queste coppie così sbilanciate. C'è spessissimo la paura delle donne di non essere all'altezza di un amore normale, e quindi abbassano l'asticella invece di alzare l'asticella per superare, abbassano l'asticella sempre di più sperando di rendersi il salto più facile. Purtroppo però questo abbassamento dell'asticella abbassa ancora, cioè abbassa ulteriormente il livello di autostima, e quindi diventa una sorta di circolo vizioso nel quale le donne si ossessionano, si spaventano e vivono sempre più nell'angoscia, perché una cosa è perdere un uomo con delle qualità normali, una cosa è perdere un uomo già svalutato. Se si perde anche l'uomo svalutato, ci si svaluta ulteriormente, e questo è fonte di angoscia continua. Senti Gianna, passando a delle valutazioni iperboliche, però meno basate sull'introspezione, sulla lettura del profondo, è possibile secondo te una calata di ammortizzatori sociali per donne che amano troppo? È indubbio che la calata delle straniere dell'est abbia cambiato molto alcune configurazioni sociali, ne parleremo, ci sono intere regioni d'Italia che sono colpite dal fenomeno, cambia completamente proprio la tipologia familiare, cambiano le famiglie, si vedono questi schifosoni con bambini biondi bellissimi, con donne meravigliose e altrettanto signore che tutta la vita hanno tirato la carretta per un marito, abbandonate, famiglie distrutte, proprietà che cambiano. Ecco, potrebbe accadere qualcosa di diverso, sono una calata di questi vichinghi meravigliosi che fungono alla stessa maniera da ammortizzatore sociale, da compensatore? Ma è talmente cambiata la nostra società, ci sono dei cambiamenti così strani, così che non avremmo mai potuto prevedere qualche anno fa, che questo potrebbe anche accadere se fosse un fenomeno di massa. Certo che singolarmente non è così, e naturalmente si parte sempre da quanto le donne stimano se stesse, e questi ipotetici maschi che arrivano dall'est o dall'ovest o da dove vogliono, che però creano una statistica, come dire, una sorta di normalità statistica, lo fanno tutti, quindi lo faccio anch'io, però per adesso mi sembra una cosa un po' lontana, sia perché non ci sono calate di maschi, sia perché le donne sono ancora troppo impregnate nel loro masochismo. Melog 2.0. Ah, Nicoletti, bella la trasmissione, come la gestisci. Io voglio dire che comunque la donna di oggi è quella che tu rappresenti con quei stralci, quello che vediamo in Sex and the City. La donna non può più essere sottomessa, altrimenti c'è il rischio di incompatibilità fisica, è totale, proprio non c'è la possibilità di convivere. Non so se tu ci hai mai convissuto con una donna, oggi è improponibile, quindi è meglio trattarla come uno straccio senza farla entrare troppo nella tua vita. Il mio messaggio è questo: gli uomini cercano la badante perché poi, diciamo, per i loro bisogni possono anche andare fuori, quindi una donna, se gli fa da badante, viene sposata, viene mantenuta, eccetera eccetera. Grandissima la navigatrice gnoccherrima Roberta Cirillo, che vi abbiamo già presentato, che ci ha fatto il film in diretta l'altra volta. Dice: a volte l'uomo bestia, su Facebook naturalmente, che è questo luogo misterioso che un giorno vi spiegherò, in cui le persone seguono comunque la trasmissione di nascosto dai luoghi di lavoro e mandano messaggi. A volte l'uomo bestia si cela dietro una superficie sia fisica che comportamentale piacevole e affabile, per poi dimostrarsi una bestia intellettuale dopo lunghissimi tempi di frequentazione, dopo che magari ignora la serie cantonata che stai prendendo, c'è fatto un figlio e via dicendo. A quel punto tutto sta nella visualizzare la propria forza emotiva, uscire da una sorta di meccanismo a catena. Beh, quindi è un discorso lunghissimo, parla della bestialità intellettuale. Può essere anche un uomo pieno di fascino, un uomo bestia, che però ha tutte le caratteristiche di egoismo e sopraffazione della bestia puzzolente. Antonio, lei cosa ne dice? Buongiorno dottor Nicoletti. No, non mi chiami dottore, sennò parte la motosega, non sono io a farla partire. Cioè, il dottore è quello che si chiama quando uno sta male. Il medico, meglio tenersene alla larga dal medico. No, sono tutti dottori oggi, ma lasciamo perdere il dottore. Lasciamo perdere. Senta, allora, stavo ascoltando questa bella trasmissione sull'altra metà del cielo, o perlomeno sulle due metà del cielo, che per lo più sembrano essere più che integrate degli universi separati, e mi è tornato in mente... Cosa sta parlando, no? Perché comincio a sudare freddo. Dell'universo femminile, dell'universo maschile, di come possono essere rapporti. Mi è tornato in mente quello che era stato il viaggio di Ulisse e di Circe, la maga Circe, che trasformava gli uomini in animali. Però poi, ripensando a tutto il viaggio d'Ulisse, che potrebbe essere anche una sorta di viaggio sentimentale attraverso le donne, col ritorno alla sua Penelope, alla fine si ritorna dalla propria moglie. Sì, noiosissima, integerrima, tutto il giorno a fare tele, totalmente insensibile a tutti quegli omaccioni che c'aveva per casa, figura irreale. Voglio immaginarlo in questa maniera, in questa sorta di metafora di viaggio di educazione sentimentale, come può essere stato, che ne so, un altro scrittore che ha scritto Stendhal, l'educazione sentimentale, o anche il rapporto diverso che ha avuto Giasone con le donne. Ma in tutto questo si parla sempre di donne bellissime. Nessuno ha descritto come fosse Ulisse: brutto, bello, basso, alto, intelligente, furbo. Il più delle volte credo che... Che nel suo errare di donne belle e fascinose ne ha sedotte abbastanza, almeno un paio, se ne sa. Quindi qualcosa doveva avere da dare in cambio, non era proprio un animale, se no non sarebbe stato... Presente quel film con Giancarlo Giannini, Pasqualino Sette Bellezze, in cui, pur non essendo bello, piaceva. Era questa la dicitura era il tema del film. Sì, ma io non vorrei, la chiave non è tanto la figlio di puttanaggine degli uomini, è questa sorta di gratuita affezione, questo regalo che fanno le donne a uomini che poi nemmeno lo cercano, nemmeno chiedono nulla, stanno lì, sono degli animali dentro una gabbia, sono tutti contenti probabilmente, non ne fanno nulla, né per andarsene, probabilmente se fossero lasciati nemmeno a loro importerebbe niente, è la bestia morfa ingiustamente gratificata da una presenza femminile che a noi dà fastidio, per questo ne parliamo. Ma probabilmente, a parer mio, è il rapporto diverso che hanno gli uomini o le donne con il sentimento. Se mentre la donna cerca il contenuto, l'uomo cerca il bel contenitore, la bella donna. Ma non trova che sia ormai una lettura un po' logorata? A me queste donne che cercano il contenuto, guardi, sì, capita molto spesso, siamo fortunati, o di uomini che cercano soltanto il contenitore. Abbiamo uomini ormai totalmente perduti nel sentimentalismo, che hanno dei palpiti da giovinette ottocentesche, che piangono, che pregano, che implorano, non mi lasciare, via dicendo. Sono categorie un po' rivisitabili, no? Non trovo. Sì, ne sono d'accordo, perché ultimamente sta cambiando il comportamento degli uomini, cioè ci si porta fuori la parte femminile, cioè l'uomo incomincia ad ammettere di piangere, di provare dei sentimenti, di provare delle cose diverse. Sì, però è una paraculata, perché capito che alle donne piace l'uomo che fa il piantarello, che è sentimentale. Sì. Nessun uomo piangerebbe gratuitamente. Ma figo, ho pianto migliaia di volte per finta e ha sempre funzionato. Diciamolo. No, dobbiamo essere sinceri, perché se noi ci prendiamo il lusso di fare gli uomini buoni che parlano degli uomini brutti, dobbiamo anche dire la verità. Ma per gli uomini brutti, per i romani la virilità era brutto, quindi era l'uomo doveva essere brutto per essere apprezzato. Quindi vabbè, sarà un'altra cosa fuori dal tempo, ancestrale, quello che vuoi. Vorrei concludere solo con, alla fine, con una constatazione. Si è parlato delle badanti, delle straniere. Sì, lo prendiamo questo argomento, che è un argomento molto sentito. Solo quello, forse l'erba del vicino è sempre la più verde. Perché i francesi sposano l'italiana allora? Ma guardi, questa domanda non so proprio rispondere. Se allude al presidente Sarkozy, mi sembra più una cosa costruita sul tavolino di chi definisce le visibilità degli uomini famosi che una reale storia di accoppiamento. Tacchetto alto e ballerina bassa stanno bene insieme, perché ne parliamo noi giornalisti, perché è un grande gadget sovranazionale, che poi i francesi vengano a cercare le italiane, sì. Se lei risulta, forse nelle terre di confine. Annalisa, buongiorno. Buongiorno. Single da 11 anni, sì. Ma non per scelta. No, cioè single dal punto di vista affettivo, ecco così. Quindi praticante naturalmente, giustamente. Perché ridere? Scusi, ma sì, guardi. Praticante va bene. Ma perché la fa sorridere l'aspetto praticante? Ma perché diciamo sminuisce, nel senso perché, che... No, adesso questo me lo deve dire, perché l'aspetto sentimentale, perché... mi scusi, perché l'aspetto sentimentale ha una gerarchia superiore rispetto all'aspetto fisico? Mi deve spiegare perché queste due categorie sono messe in quest'ordine gerarchico, il sentimento è nobile, bello e gratifica, la passione fisica, la carnalità invece è qualcosa che bisogna tenere nascosti e sminuisce. No, me ne guardo bene, però diciamo che quello che mi smuove, io parlo chiaramente di me, sarebbe un connubio delle due cose, cioè, sì, potendo è meglio, riuscire, certo, ecco. Però anche quindi, in questo, guardi, sarò maligno fino in fondo, non sempre l'aspetto sentimentale, ahimè, è un incentivo alla passione. Molte volte è bello, piacevole avere un ricordo soltanto fisico di una persona. Detto questo, mi starò segando le gambe da solo, però no, io sono un grande cultore della dignità del corpo, che viene troppo spesso considerato come qualcosa. Allora, tante volte avere un uomo che poi non la chiama, non le dice perché non mi richiami, ma tu mi ami, ma lo fai solo per me, e comincia a controllarla, può essere noiosissimo. No, vabbè, la mia idea di amore è un po' più aulica di questo, va proprio molto al di là. Insomma, io penso che le due cose possano andare benissimo insieme, magari la passione dopo un po', come si dice, scema, tutto quello che vuole, però... Lei se le prendono le bestie, Annalisa, così concludiamo la trasmissione. Se le prende le bestie, se le capita? Sia sincera. Diciamo che... Se intravedo che oltre alla bestia c'è un uomo, mi può anche andare bene. però non è quello che... Beh certo, se è un cavallo e un cane si accorge subito che non è cosa, ma se è una bestia... No, a volte ci sono delle bestie che sanno vestirsi molto bene, cioè voglio dire... Come diceva la nostra amica Cirilla, ci sono delle bestie estremamente subdole, perché non sono bestie puzzolenti, ma sono bestie d'animo, bastardi dentro, come si dice. Lei tenga conto che, come dicevate anche prima, ad esempio le donne dell'est sono arrivate ad inquinare un terreno che era già per noi molto inquinato. Perfetto, guardi, mi fermo su questa strada perché mi sembra un meraviglioso spunto, una prossima trasmissione, forse la richiameremo per l'attentato che viene dai paesi dell'est alla possibilità della donna italiana di scegliere anche bestie. Gianna Schellotto, siamo arrivati proprio in conclusione, hai una battuta, una riflessione rispetto a quello che hai sentito fino adesso? Beh sì, quella di passare alle donne un messaggio, di togliersi dalla testa di salvare qualcuno, di cambiare qualcuno e di cercare soltanto di salvare se stesse. Grazie Gianna, perché noi poi non è che vogliamo essere salvati, vogliamo solo essere confortati anche in momenti fuggevoli della nostra vita e trovare sempre persone nuove che ci salvino. Arrivederci, a domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.